Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Afferrare un oggetto senza toccarlo è quanto si propone di fare Marcel Schuch, ricercatore dell'ETH, quindi Politecnico di Zurigo, che ha sviluppato un particolare tipo di pinza robotica basata su un fenomeno noto e anche studiato da molti anni, ma finora poco o nulla sfruttato in termini pratici, la levitazione acustica. Allora, per aiutarci a commentare questa notizia, in linea con noi c'è Antonio Frisoli del Laboratorio di Robotica Percettiva dell'Istituto TECIP, Tecnologie della Comunicazione, Informazione e Percezione, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Buonasera Frisoli, bentornato a Smart City. Buonasera. Allora, ci descriva un po' intanto questo oggetto di cui si parla sul sito dell'ETH appunto di Zurigo. Sì, l'oggetto si presenta come un piccolo braccio robotico sulla cui estremità è montato un gripper particolare formato da due semisfere poco distanti tra loro delle dimensioni, diciamo, dei padiglioni di due cuffie. Sì, sembra un'arancia spaccata in due per certi versi, no? Esattamente. All'interno del quale sono stati montati tanti speakers che sono in grado, attraverso la loro azione, di spostare all'interno di questo volume dei piccoli oggetti. E il principio grazie al quale questi oggetti rimangono sospesi all'interno di queste due, appunto, chiamiamole semisfere, come diceva lei, ricoperte da tanti speaker, è la levitazione acustica. Ci spiega un po' meglio di che cosa si tratta? Sì, questo è un principio noto da tempo, perché ciascuno di questi speaker può generare un campo di pressione sonora. In realtà, in questo caso, si usa una pressione ultrasonora per chiaramente non generare rumori udibili. Non assordare il povero. Ciascuno... il povero ricercatore. Esattamente. In questo caso, diciamo, un singolo campo di pressione lo possiamo vedere come un'onda stazionaria, diciamo, su una superficie d'acqua in un lago. Avendo però tanti microfoni disposti su una sfera, tutti questi campi di pressione generati da ciascuno speaker si sovrappongono e creano delle linee nodali, quindi delle linee all'interno dello spazio, che sono in grado di intrappolare gli oggetti che, qualora fossero puntiformi, rimarrebbero bloccati, confinati tra queste linee d'onda generate appunto dai campi di pressione. Quindi diciamo che controllando tutti i singoli speaker in modo opportuno si crea una specie di superficie sonora che ha una forma adeguata a contenere un oggetto. Esatto, sì, per far fluttuare l'oggetto nello spazio è fondamentale poi, diciamo, il cervello elettronico, quindi l'algoritmo di controllo che va a modulare questo campo di pressione. Quindi la modalità con cui vengono controllati questi speakers determina la capacità anche in questo caso di spostare oggetti di dimensioni non così piccole, perché diciamo è da qualche anno che si è riuscito in realtà a spostare degli oggetti che hanno delle dimensioni di qualche centimetro. Già anni fa c'è stata una ricerca che veniva da Bristol pubblicata di questo tipo, perché invece fino ad ora si parlava appunto di oggetti di dimensioni molto piccole, molto più piccole. Quasi sempre delle goccioline, tra l'altro liquide, che sono un po' più facili da tenere sospese. Ecco, quali sono i vantaggi offerti da questo tipo di manipolazione, quindi senza contatto, e quali delle possibili applicazioni di conseguenza? Beh, sicuramente il poter fare una manipolazione senza contatto si presta in due scenari. Uno scenario in cui non c'è l'accesso all'oggetto, pensiamo, infatti fino ad ora è stata applicata questa tecnica per esempio nella manipolazione di particelle all'interno di gel in ambito biologico, per esempio, oppure quando non si vuole entrare in contatto con l'oggetto perché o l'oggetto è di difficile manipolazione, pensiamo ad un oggetto soffice, quindi di difficile afferraggio in modo automatico, oppure si potrebbe alterare lo stato dell'oggetto. I ricercatori dell'ETH citano il caso di un piccolo ingranaggio con il lubrificante sulle sue superfici e non si vuole, nel manipolarlo, alterare la superficie lo strato di lubrificante sulla superficie di questo ingranaggio. Tra l'altro si parla, se ho ben capito, di ingranaggi da orologio fondamentalmente, il che non è sorprendente considerato da dove viene la notizia. Certo, se due indizi fanno una prova ci fa pensare che è molto interessante lo scenario che possa essere utilizzato nell'ambito della micromeccanica, quindi per quando in questo caso la dimensione degli oggetti da manipolare può essere anche un problema, e quindi questa tecnologia è sicuramente interessante come scenario, quindi dall'applicazione biologica si va verso scenari che possono essere anche appunto per esempio la micromeccanica di precisione. Ecco, quali sono invece i limiti di questo tipo di manipolazione? Beh, sicuramente parliamo chiaramente attualmente di una tecnologia che è a livello di laboratorio, su cui appunto ad un livello diciamo di TRL, quindi di prontezza ancora iniziale. La massa degli oggetti è sicuramente, la massa e la dimensione degli oggetti è sicuramente un limite, ed anche il fattore di forma, perché attualmente penso che questa ricerca si focalizzerà soprattutto su rendere stabile il movimento quando la forma di questi oggetti non è una semplice sfera, ma appunto è una forma simmetrica, come citavamo nel caso precedente, quello di un ingranaggio. Non è diciamo, non sono da mettere a punto degli algoritmi che consentono di rendere stabile in questo caso il movimento di questi oggetti. Va bene, allora grazie ancora una volta Frisoli. Grazie a lei, un saluto a tutti. Cari ascoltatori, abbiamo concluso anche per questa sera. Un saluto da parte mia, buona serata e buona continuazione qui su Radio 24.